Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria densa, devo dire oggi, di notizie sia di mercato che di economia italiana e poi di singoli titoli in borsa. Andiamo con ordine. La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, questo lo sapete già probabilmente, l'effetto anche, non solo, di tassi invariati e di alcune dichiarazioni di cui parleremo subito in apertura del presidente Jean-Claude Trichet, che ha definito i tassi adeguati alla crescita, ha detto che preoccupa il ritorno alle tensioni sui mercati. Comunque, insomma, la tendenza complessiva sui mercati è la seguente. L'euro è schizzato 1,42 nei confronti del dollaro, quindi di nuovo molto forte, e il petrolio è aperto in rialzo, ormai viaggiamo a $86.50, l'oro cresce pure. Cioè, il mercato continua a ragionare su un dollaro che continuerà a indebolirsi dopo la decisione anche più forte del previsto presa dalla Banca Centrale Americana ieri, e cioè 600 miliardi di dollari che investirà la Banca Centrale Americana per ricomprarsi le obbligazioni americane, quindi vuole mantenere i tassi bassi e indebolire, eventualmente tenere anche il dollaro debole, e per facilitare la crescita economica in America, o perlomeno mantenere in vita quel poco di crescita che si vede anche in America. Ne paga le conseguenze, come fa da mesi, l'euro, che è 1,42. Le borse però oggi vanno bene. Vanno bene sia Parigi, che guadagna il 2%, Francoforte l'1,70, Londra il 2%, Milano un po' meno delle altre, più 1,2%. L'America è molto forte, più 1,6%. Vi arriveremo. Anche perché dentro Piazza Affari oggi c'è a far notizia soprattutto Telecom Italia. Va male il settore telecomunicazioni nel suo complesso, però vedremo. Anche qui scende a 1,05 per azione, meno 3,90%. Finmeccanica, dopo i conti di ieri, diffusi al mercato chiuso, oggi ha perso il 3%, è il secondo peggior titolo oggi tra quelli che contano. Bene invece Buzzi Unicem più 5, Azimut più 4,6, Exor, la cassaforte finanziaria degli Agnelli dentro Fiat, più 3,84%, molto forte anche oggi, e anche Fiat è molto forte, più 2,5% a 12,5 euro. Bene le banche, UbiBanca più 2,35, Unicredito più 2,1, Monte dei Paschi più 2, bene anche Eni più 1,60. Allora, anche di Fiat parleremo, ma non in borsa, quanto per il fatto che è iniziato l'incontro tra il ministro allo sviluppo economico Romani e il numero uno della Fiat Sergio Marchionne. Il tema è Pomigliano, ma chiaramente non solo, e ci collegheremo in diretta con chi sta seguendo l'incontro per Radio 24. Terzo e ultimo tema che tratteremo, l'appello molto forte, molto duro, devo dire, arrivato dagli artigiani italiani. Oggi nell'Assemblea della Confederazione Nazionale Artigiani un richiamo al governo a occuparsi dei reali problemi del paese. La dichiarazione che gli artigiani assistono sbigottiti e a quanto sta avvenendo nel teatrino della politica, si sentono soli. Cercheremo di capire perché i motivi che hanno spinto il loro presidente a un appello così, così forte, che è inutile dirlo, è inutile girarci attorno, richiama in molti passaggi quello già fatto sabato scorso da capi dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, nel giorno questo in cui il governo è stato battuto, e anche di questo parleremo in apertura, su un emendamento dell'UDC e di MPA, il Movimento di Lombardo, il Movimento per l'Autonomia, sui fondi FAS, i fondi europei. È un emendamento alla finanziaria, il governo è andato sotto, nonostante appunto con 24 voti da una parte, 22 dall'altra. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo che alcuni di voi già scrivono che insomma petrolio, oro, euro su, borse drogate della Federal Reserve, si sta creando una nuova bolla. Può essere, se lo sapessi non sarei qui, diciamo, farei altro, però è l'opinione, il timore, diciamo, di molti economisti e opinionisti che abbiamo ascoltato in questi giorni, è che la Federal Reserve, inondando di liquidità l'economia americana, stia in realtà rendendo troppo facile l'uso di denaro, troppo facile gli investimenti, stia facendo un favore alle banche, senza che questo però stia portando una maggior fiducia, una voglia di investimento e di consumo da parte delle famiglie e degli imprenditori americani. Semplicemente rende più facile utilizzare il denaro anche per fini speculativi, anche per investimenti, diciamo, non produttivi. Volete che ci occupiamo della fiera cavalli? Oggi non ce la facciamo. L'unico cavallo di cui ci occupiamo è quello che non vuole bere, che è il cavallo americano, però usando la metafora di Keynes, nonostante tutta l'acqua che gli stia dando la Federal Reserve, vediamo se domani riusciamo a coprire anche la fiera cavalli, anche per ogni tanto respirare. Invece, dopo il petrolio, l'oro, andiamo su alcuni dati americani. Buono il dato sulla produttività americana, più 1,9%, cala il costo del lavoro. Il Fondo Monetario, con questi appelli che ogni tanto, vabbè, dice sta calando il deficit negli stati del mondo a livello globale, adesso servono le riforme. Ieri l'OCSE ha sostenuto che il deficit e il debito invece era a livello non più sostenibile. E poi qualche buona notizia per l'Italia, perché dice che il saldo primario, cioè la differenza tra quanto entra nelle casse dello Stato e quanto spende invece lo Stato al netto degli interessi che paga sul debito, come una famiglia, insomma, che fa i conti tra quanto le entra di stipendio, quanto spende senza guardare agli interessi che paga sul mutuo, dicevo, questa differenza tornerà a essere positiva, secondo il Fondo Monetario, dal 2011, per aumentare negli anni successivi. Questa sarebbe veramente una bella notizia, perché l'avanzo primario vuol dire che entrano più soldi di quelli che spendiamo e quindi si va a ridurre il debito complessivo. E poi il Fondo Monetario dice è importantissimo sia in termini di equità che di efficienza che l'Italia abbia annunciato dei piani per combattere l'evasione fiscale. Però dice noi siamo meno ottimisti delle previsioni del governo italiano su quanto riuscirà lo Stato italiano a incassare dalla lotta all'evasione fiscale, e prevede un deficit quest'anno al 5%, l'anno prossimo al 4,3%, per il governo invece l'anno prossimo dovrebbe essere al 3,9%. Ancora per quello che riguarda gli artigiani, volete sapere che cosa ha detto il loro presidente? Ha detto basta, così non si va avanti. Esprimiamo disagio e perplessità sull'azione del governo e chiediamo che l'esecutivo avvitato attorno a questioni che appaiono sempre più lontane dalle sfide drammatiche del paese, chiediamo che l'esecutivo si occupi del problema, dei problemi veri del paese e di chi produce. Ancora. Come è andato l'incontro tra Sergio Marchionne e Paolo Romani, il nuovo ministro dello sviluppo economico? Ne parleremo fra un poco. È andato bene, secondo quanto ha detto Marchionne poco fa, e Marchionne ha ribadito non ho mai minacciato di lasciare l'Italia, ha continuato le assunzioni a Pomigliano, partiranno dal 2011 e il mercato è comunque in linea con le nostre previsioni. C'è qualcosa di incredibile, perché il titolo Fiat va benissimo e siamo contenti, però Standard & Poor's oggi ha detto che ha dato un voto preliminare al debito Fiat BB+, con outlook negativo, cioè con prospettive negative per quello che riguarda Fiat Industrial, cioè la nuova parte di Fiat cui faranno capo le attività industriali del gruppo, tranne la parte auto, che invece sarà in Fiat Auto. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo che molti si interessano anche della bolla americana, dei rischi. Stiamo tutti tranquilli prima di parlare di bolla. Adesso ci occupiamo della Banca Centrale Europea, che anche di bolle si è occupata, ma soprattutto di debito, di euro, di tassi di interesse. E poi passeremo al governo, che è battuto in un emendamento alla finanziaria, domani deve presentare il piano nazionale per la riforma, per cui in Consiglio dei Ministri vi sarà un appuntamento importante. Iniziamo dalla Banca Centrale Europea. Il consiglio direttivo della BCE continua a ritenere che il livello attuale dei tassi di interesse sia appropriato e quindi abbiamo deciso di lasciarli invariati. Considerando le informazioni disponibili dall'ultimo incontro di ottobre, ci aspettiamo che gli sviluppi sul fronte dei prezzi rimangano moderati nel medio termine. I recenti dati sull'economia dell'area euro confermano che continua il movimento positivo della ripresa economica. Allo stesso tempo, però, prevale uno scenario di incertezza. La nostra analisi conferma che la pressione inflazionistica nel medio termine rimane contenuta. Ci aspettiamo che la stabilità dei prezzi sia mantenuta nel medio periodo, sostenendo il potere di acquisto delle famiglie nell'area euro. Ci aspettiamo che il livello di inflazione resti ancorato e in linea con il nostro obiettivo di mantenerlo al di sotto o vicino al 2% nel medio termine. Inflation rates below, but close to 2%. Over the medium term. Così il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che poi ha aggiunto, oltre che i tassi sono adeguati, che preoccupano un ritorno delle tensioni sui mercati, insomma, peccato che nella riforma del patto europeo non si sia prevista una maggiore automaticità sugli obiettivi e l'obiettivo di debito non sia stato inserito in maniera specifica. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Ascoltiamo anche questo Trichet sul patto di riforma europeo, un Trichet diciamo molto filo tedesco su questo e poi a te il commento. Molti di voi ci stanno chiedendo, ne hanno ragione, al 349-238-6666 del debutto di Enel Green Power, ne parleremo, è stato un debutto che insomma, ad alcuni può aver deluso, aspettiamo che chiuda il mercato e poi ve lo diamo, comunque ne parleremo ampiamente durante i mercati. Enel Green Power sta perdendo in questo momento circa lo 0,6%, però Trichet sul patto di stabilità e gli obiettivi mancati chiari sul debito. At their meeting of the 28th and 29th of October. Nell'incontro del 28 e 29 ottobre, i capi di Stato e di governo europei hanno trovato un accordo sulla riforma della governance economica. Le proposte rappresentano un rafforzamento dell'attuale contesto di sorveglianza dei conti pubblici, ma pensiamo non vadano tanto avanti quanto chiedevamo. In particolare siamo preoccupati dal fatto che la riforma del patto non prevede una sufficiente automaticità nelle sanzioni a carico di coloro che sgarrano sui parametri chiave, così come non sono previsti impegni sufficientemente chiari sulla riduzione dei debiti pubblici. There is no specification of the rule to reduce the government debt ratio. Allora, poi arriveremo anche alle dichiarazioni di Trichet sui cambi, sul rapporto valutario. Insomma, Beda Romano, un Trichet che dice i tassi sono adeguati, ci preoccupa qualche tensione sui mercati e avremmo voluto dei vincoli ancora più stretti, più stringenti forse, quanto all'obbligo dei paesi di rientrare sul debito e il deficit. Un po' di delusione in Trichet su questo. Assolutamente, Trichet ha sottolineato la sua delusione in parecchie circostanze nella conferenza stampa di oggi. Lo ha fatto perché la settimana scorsa il Consiglio europeo, presieduto da Herman Van Rompuy, ha preso la decisione di accettare il compromesso raggiunto la settimana precedente dall'Ecofin ed è un compromesso che riforma il patto di stabilità, lo rende sì più stringente rispetto a quello precedente, ma prevede che le sanzioni siano solo quasi automatiche, sanzioni nei confronti dei paesi con un deficit eccessivo. In altre parole, le sanzioni ci saranno nei confronti di questi paesi, ma attraverso un voto politico del Consiglio europeo. La Banca Centrale Europea avrebbe preferito che queste sanzioni fossero praticamente automatiche, sì. In altre parole, senza il via libero politico, perché la preoccupazione della BCE in questa circostanza è che i vari paesi in un modo o nell'altro si appoggino a vicenda e evitino le sanzioni automatiche. E quindi questo mi sembra il punto principale criticato oggi più volte da Trichet. Sì, devo dire, a mio avviso ha ragione Trichet, perché è chiaro che nel momento in cui il passaggio, prima di arrivare alla sanzione, prevede il passaggio politico, lì si possono fare accordi, appoggi reciproci, insomma, se era un automatismo partiva subito la sanzione per chi sfora il deficit e il debito. Devo anche dire però, Beda, che forse la Banca Centrale Europea è un po' troppo intransigente, un po' troppo tedesca, non europea, la BCT, sul tema del debito e del deficit, perché è anche vero che andare a chiedere, come aveva chiesto la Germania, un rientro che sarebbe costato all'Italia sui 200 miliardi in 3 anni e alla Francia un'ottantina di miliardi in 3 anni, significa ammazzare qualunque possibilità di ripresa. Già soldi non ce ne sono, qui se ne dobbiamo tagliare ancora, poi magari salviamo i conti pubblici, ma il paese va in ginocchio, o no? O sono troppo filo Sarkozy? No, il problema è che forse in questa circostanza la BCE è più tedesca dei tedeschi, non c'è sì, è vero, perché, è vero, perché è vero. I tedeschi avrebbero potuto imporre una soluzione più drastica al vertice di Deauville con i francesi un paio di settimane fa, e in quella circostanza i tedeschi hanno seguito la strada francese, in altre parole hanno accettato l'idea che la sanzione non fosse automatica e fosse invece vincolata a un voto politico. Credo che più in generale, ho l'impressione, ci sia in Europa una dicotomia, direi. Da un lato c'è una Banca Centrale Europea che è ancora oggi l'unica istituzione federale in Europa e che esorta in un certo senso i paesi a un trasferimento di sovranità. La BCE avrebbe voluto in questa circostanza un trasferimento di sovranità, in altre parole il passaggio dei poteri sulla sanzione da comminare a un paese in deficit eccessivo alla Commissione europea, in altre parole a un organismo tecnico. Dall'altra parte i governi nazionali e il Consiglio europeo non se la sono sentita di trasferire questi pieni poteri a un organismo tecnico. Quindi ho l'impressione che proprio siamo di fronte, per certi versi, a due visioni dell'Europa, una visione federale e una visione intergovernativa. Oddio, sì, solo che la visione federale della Banca Centrale Europea non sono mica eletti i vari commissari della Banca Centrale Europea, perché o i vari membri del board, del comitato direttivo, perché un conto è dire trasferiamo alcuni poteri al Parlamento Europeo, che comunque viene eletto dai cittadini europei. Io all'idea che tutta la parte, diciamo, di contenimento dei conti pubblici viene trasferita a dei tecnici che stanno a Francoforte, massimo rispetto, ma che spesso si sono dimostrati un po' troppo rigidi per essere buoni, hanno preso anche qualche bella cantonata, Beda, perché alzare i tassi prima che scoppiasse la crisi più grande degli ultimi 70 anni, ancora non abbiamo sentito una scusa da Trichet, sono passati 2 anni, beh, io preferisco che le scelte le faccia la politica, almeno la politica ogni 3, 4, 5 anni viene sottoposta a elezioni, dipende dal paese, chiaramente. In questo caso non ci sarebbe stato un trasferimento di sovranità alla BCE a Francoforte, ma alla Commissione europea, certo. A Bruxelles. Dipende, voglio dire, se vediamo la Commissione europea come l'embrione di un futuro governo europeo, l'ipotesi di un trasferimento di sovranità, se fosse anche solo parziale, in un campo ben determinato, può essere un'ipotesi da prendere in considerazione. No, ma a me quello che lascia perplesso non è un trasferimento, va benissimo, lascia perplesso una Banca Centrale Europea che ha sempre questa ossessione unica dei conti pubblici, del debito, prima era l'inflazione, il mantra, cioè insomma io capisco che loro non sono eletti, però devono anche capire che la classe politica in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna risponde agli elettori, ma meno male che è così. Allora non basta dire devi ridurre il debito, chi siamo tutti d'accordo, ci mancherebbe. Se poi però questo vuol dire un automatismo come quello che era proposto nella prima versione, in cui noi tiriamo fuori praticamente 200 miliardi in 3 anni, o la Francia 80 miliardi in 3 anni, qui ammazzi il paese, non è che contieni il debito. È come una famiglia, che un'impresa che gli chiede di rientrare, questa qua chiude e i battenti. Un conto è chiedere di rientrare sul debito, un conto farti chiudere. Comunque, non sei tu, diciamo, l'oggetto della mia delle mie perplessità, anzi vorrei che tu commentassi dopo aver ascoltato la dichiarazione cosa ha detto Jean-Claude Trichet sul dollaro ai minimi e l'euro di nuovo a quota 1,42. I have no indication that would change my trust. Non ho alcuna indicazione che faccia cambiare la fiducia che ho nella Federal Reserve, nel Tesoro americano e nel Presidente degli Stati Uniti sul fatto che non stiano dando sufficiente attenzione alla forza del dollaro. Non ho alcuna ragione per non fidarmi. Credo alle loro parole quando affermano che è nell'interesse degli Stati Uniti avere un dollaro forte nei confronti delle altre valute, euro compreso. È chiaro che l'evoluzione dell'economia americana, le informazioni sulla prima economia al mondo sono per noi fondamentali. Mi sembra che la decisione di ieri della Federal Reserve sia stata una decisione che era già nelle aspettative di molti osservatori. Allora, Beda Romano, su questo io capisco il fair play, però Trichet dice, vabbè, ce lo aspettavamo che la Banca Centrale Americana avrebbe comprato 600 miliardi di dollari in pochi mesi, obbligazioni americane, titoli di Stato americani per tenere basso il rendimento, inondare di liquidità al mercato e tenere basso il dollaro. Dopo il meteo, però vorrei sapere se tu non trovi che la Banca Centrale Europea stia vivendo in maniera un po' passiva questo scontro valutario, cioè la Federal Reserve fa quello che vuole, abbassa il dollaro a piacimento, i cinesi si comportano come credono e noi qua a subirne le conseguenze. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms. Sì. 17.35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Beda Romano, è vero che la Banca Centrale Europea è più preoccupata dei conti pubblici dei vari paesi che non di difendere l'euro, in questo caso non facendo in modo che si rivaluti troppo, che si rafforzi troppo, cioè che subisce passivamente l'azione energica della Banca Centrale Americana e le scelte chiaramente a favore della Cina che compie la Banca Centrale Cinese. La Banca Centrale Europea è evidentemente in una situazione difficile, perché da un punto di vista di politica monetaria vede di cattivo occhio le continue iniezioni di liquidità da parte della Banca Centrale Americana e di altre banche centrali in giro per il mondo. La Banca Centrale Europea è convinta che non è con le iniezioni di liquidità che si riesce a sostenere l'economia ed è convinta che bisogna cercare di, a questo punto, ridurre l'ammontare di liquidità nell'economia mondiale e quindi ridurre le operazioni di rifinanziamento che sono state fatte in questi ultimi due anni, che sono state operazioni a tasso fisso e ad ammontare illimitato. La banca l'ha già fatto negli scorsi mesi e probabilmente continuerà a farlo nei prossimi mesi. È evidente che la banca vede di cattivo occhio queste iniezioni di liquidità da parte della Fed o di altre banche centrali, tanto più che credo che la banca, la BCE, voglia a un certo punto aumentare il costo del denaro. Allora, non siamo ancora a questi punti, evidentemente, potrebbe succedere nel corso del 2011, tendenzialmente nella seconda metà del 2011, ma insomma la banca è in difficoltà perché si trova abbastanza isolata rispetto agli altri istituti meno. Alle sue sorelle, chiaro. La paura della banca è che questa liquidità a un certo punto possa provocare o una bolla o inflazione. Ah beh, questa è una paura che modestamente abbiamo anche noi a giudicare da quello che sta capitando. Comunque, grazie a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte, dai temi europei, tassi invariati, delusione della Banca Centrale Europea per non aver avuto gli automatismi sulle sanzioni per i paesi che sforano e imbarazzo perché le altre banche centrali al mondo si comportano diversamente, soprattutto gli americani, e il rigore non sanno neanche cos'è sui conti pubblici, il deficit del 14% e inondano il mercato di liquidità, ai problemi del governo che domani avrà un consiglio dei ministri importantissimo ma che oggi ha avuto un piccolo passo falso. Eh sì, perché è stato battuto in un emendamento in Commissione Bilancio alla Camera. Gli emendamenti sono quelle proposte che emendano, che modificano leggermente quello che è la legge. Allora, la legge è quella finanziaria, gli emendamenti sono quelle proposte che dicono no, facciamo anche questo, facciamo anche quest'altro. Complessivamente valgono, ha calcolato il viceministro Vegas, 4 miliardi e mezzo di euro. C'era un emendamento su cui il governo era contrario, che riguardava i fondi FAS, che sono i fondi per le aree da sviluppare, i fondi europei, quelli che il nostro sud non riesce a utilizzare, battuto da un accordo tra Movimento per l'Autonomia, e quindi i Lombardo, i siciliani, e l'UDC. Dino Pesole, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Questo il giorno prima l'appuntamento di domani sul, sul piano nazionale di rilancio dell'attività di governo, il programma nazionale di riforma nell'ambito della strategia Europa 2002. Comunque, su cosa è stato battuto il governo e che cosa andrà a discutere domani il Consiglio dei Ministri? Dino. Beh, dunque, il governo è stato abbattuto su una modifica appunto alla finanziaria, che ora si chiama legge di stabilità, che era, è stato presentato dall'MPA ed era identico a uno dell'UDC, che sopprime una norma sull'utilizzo dei fondi FAS da parte delle regioni per i trasporti pubblici locali e le spese sanitarie ospedaliere. Questo è l'oggetto. Quindi, scusami, per far capire a tutti, il governo non voleva che venissero utilizzati i fondi FAS, i fondi europei, per il trasporto pubblico locale e per le spese sanitarie. Esatto, ha dato parere negativo, come del resto sta dando parere contrario a tutte le modifiche che vengono presentate, perché il viceministro dell'economia Vegas ha detto sostanzialmente che questa legge di stabilità, che fotografa i conti pubblici così come sono stati in qualche modo, come dire, riformati, se vogliamo, dalla legge e dal decreto della scorsa estate, non si accettano modifiche. Dunque questa era una pregiudiziale assoluta. Ora, oggi, in commissione è stato dato un segnale che è tutto politico, potremmo definire, certo, prove tecniche di terzo polo o di grande centro. Oddio al terzo polo, oddio a questi giochi che... Allora, andiamo con ordine, vedo molti messaggi al 349-238-6666. Mi sembra che il governo avesse ragione, non si può tranquillamente dire senza ricevere poi messaggi di essere filo governativo o schiavo dei padroni. Avesse ragione perché l'utilizzo dei fondi che l'Europa mette a disposizione delle aree svantaggiate, mezzogiorno italiano, aree depresse in Spagna, in Irlanda, in Portogallo, è per farle sviluppare, non per coprire i buchi sanitari che le amministrazioni hanno fatto perché hanno speso i soldi per altri modi o se li sono mangiati proprio, né per il trasporto pubblico locale, cioè sono fondi che servono per fare sviluppare le aree, no? Questo lo possiamo dire? Questo non c'è dubbio, tenendo però conto anche di un fatto che già nella scorsa legge finanziaria e con le ultime manovre i fondi FAS sono stati utilizzati anche per altre finalità. Ricordo ad esempio che una parte dei fondi FAS sono stati utilizzati per coprire la spesa per gli ammortizzatori sociali. Va benissimo. È vero. Anche il terremoto, dicono, lamentano i governatori del sud che anche per il terremoto in Abruzzo si sono usati i fondi per il sud. Hanno ragione, però insomma mi sembra che il governo debba opporre un no a chi vuole utilizzare questi fondi per spesa sanitaria e per trasporto locale. Altra cosa è quello che dicevi tu, e cioè siccome Tremonti ha presentato, come è abituato a fare, la finanziaria blindata, facendo piangere metaforicamente anche alcuni ministri e non solo metaforicamente, questo è un segnale al governo di attento che tu puoi blindarla quanto vuoi, ma noi ti mettiamo sotto. Cioè se tu porti una finanziaria che dici o così o pomì, allora iniziano i giochi di terzo polo, capito bene? Sì, è questo il discorso di fondo, perché poi al di là dell'emendamento che non ha grandissimi effetti né dal punto di vista finanziario né da quello dell'equilibrio della finanziaria di per sé, della legge di stabilità, si tratta di un segnale che però appunto il governo ora deve attentamente valutare, perché ora siamo in commissione, però poi tutto si sposta in aula e quindi poi lì ci sarà probabilmente una richiesta di voto di fiducia, che però stante i regolamenti della Camera e stante quanto il Presidente Fini ha già detto chiaramente lo scorso anno, l'eventuale voto di fiducia si pone sul testo così come è uscito dalla Commissione. Quindi, non quello voluto dal governo, ma quello che è uscito dalle commissioni. Ecco, quindi qui insomma si sta giocando una partita politica molto delicata e l'auspicio è che non ci vadano di mezzo i conti pubblici, però, perché insomma lo scenario di una crisi di governo aperta nel pieno di una discussione della finanziaria è abbastanza inquietante, ma auguri. Allora, Barisone non faccia il milanese, che non so cosa voglia dire, ma anche perché non sono milanese, ma i FAS alla Sardegna non sono stati dati. Allora, abbiamo già ricordato che i FAS, questi fondi europei, non vengono utilizzati dalle nostre regioni perché mancano i piani di utilizzo. Per cui se poi sono stati dirottati per il terremoto, per la cassa integrazione, hanno ragione i governatori regionali. Altra cosa è dire che è giusto che vengano utilizzati per la spesa sanitaria e per il trasporto locale, che sappiamo essere in molte regioni del sud deficitari, ma non perché mancassero i soldi, per favore, perché alcune amministrazioni del sud sono cattive amministrazioni e c'è una cattiva pratica nella gestione, va bene? Poi andiamo a fare anche di nuovo una puntata, se volete, su come spendono i soldi le ASL o le municipalizzate locali in certe regioni. Qualcuno si ricorda i 300 milioni dati al comune di Catania perché chiudeva battenti. Se no, allora, detto ciò, domani di che si discute? Cos'è questo programma nazionale di riforma? In realtà è una bozza, è una versione preliminare ed è il piano che i singoli paesi europei, alla luce delle nuove indicazioni che sono state fornite dall'Europa, il cosiddetto semestre europeo di bilancio, entro il 12 novembre i paesi devono presentare alla Commissione europea una prima bozza preliminare delle riforme che intendano mettere in campo nel corso dell'anno successivo, quindi il 2011. E il governo questo si appresta a fare, è un documento abbastanza corposo, 45 cartelle, che segue esattamente lo schema che viene suggerito dall'Europa, e cioè si focalizzano gli interventi, ad esempio sulla riforma fiscale, ma anche sulla concorrenza, l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, il mercato del lavoro, si focalizzano sulla cosiddetta agenda europea 2020, che è poi la nuova agenda di sviluppo che sostituisce quella di Lisbona. Vabbè, comunque sono bisogna insomma dare all'Europa gli obiettivi per arrivare agli obiettivi di Lisbona, cosa si intende fare. Mi sembra che in un governo che naviga a vista, per carità, il documento è importante, però non sappiamo ancora cosa succederà da qua a marzo, come finirà la finanziaria, per cui sono obiettivi importanti, ma in questo momento, diciamo così, puramente a tavolino. Grazie Dino Pesole, comunque ne parleremo anche nei prossimi giorni. E adesso il traffico e poi la borsa, anche Enel Green Power, ma anche e soprattutto questo tonfo di Telecom Italia, -3,5%, mentre continua a correre Fiat, addirittura Exor oggi +4,42% a 19,84 euro, Fiat +2,70 a 12,52 euro, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vedo molti sui FAS, chi erano i sindaci a Catania, vabbè, insomma, alcuni ricordano che ha scritto un sardo di controllo, la Sassari Olbia è stata fermata come lavoro perché sono spariti i FAS. Allora, poi passiamo alla borsa però. È vero che il governo l'anno scorso ha dirottato i soldi per il sud per altre cose, terremoto in Abruzzo, cassa integrazione. C'è stata una partita di giro, diciamo, all'interno della finanziaria, anche perché era una finanziaria difficilissima. Altra cosa, e quindi è giusto chiedere questi soldi, altra cosa è chiedere, come hanno fatto con un emendamento UDC e Movimento per l'Autonomia, quindi Lombardo, che si possano utilizzare questi soldi per le spese sanitarie e per il trasporto pubblico. È un obbrobrio, questi soldi servono per lo sviluppo, non per ripienare i buchi dovuti al magna magna degli amministratori locali. Adesso basta la borsa. Andiamo con la borsa. Enel Green Power a grande voce dopo il battage che c'è stato pubblicitario, l'intervista l'abbiamo fatta anche noi, l'Enel molto ci ha tenuto a questo collocamento. Come si è comportato il titolo? Ciao Condina, buonasera. Buonasera. buonasera a voi. Dici. Allora, una seduta a due facce per Enel Green Power, diciamo un esordio non propriamente brillante, per usare un eufemismo, il titolo è arrivato a perdere anche il 4%, poi nel pomeriggio un recupero, soprattutto nel finale, con una serie di forti acquisti che hanno portato il titolo esattamente in pari. Quindi più 0%. Come interpretare questo andamento a due facce? Insomma, l'interpretazione di alcuni operatori è che nella prima mattinata sono arrivate le vendite e poi insomma forse qualche mano amica di qualche banca ha aiutato il titolo a risalire. Mano amica, non è Federica, ma mano amica di qualche banca. Che significa? Che insomma chi colloca, allora, spieghiamola questa, sennò sembra che ci siano. Vuol dire che le banche che si fanno advisor quando c'è un collocamento, cioè, o no, si prendono la responsabilità di collocare questi titoli, non è che sia Enel fisicamente che va a vendere a tutti i vari risparmiatori i suoi titoli. È probabile che quando vedono che il titolo cala molto, per non scontentare chi gliel'ha fatti collocare e anche per vanno un po' a comprare, possiamo dirla così? Sì, assolutamente. Diciamo anche che però che le banche collocatrici non ci possono essere per sempre, insomma, ci sono per qualche seduta, poi magari quando diciamo l'attenzione dei media si abbassa un pochino non sostengono più il titolo. Questo lo sappiamo. Spero per i risparmiatori che non sia questo il caso, ovviamente. No, è per evitare che i giornali domani titolino Enel Green Power tonfo in borsa, allora lo tieni un po' su, lo fanno tutti, adesso cerchiamo di non essere troppo virginelle, lo fanno tutti. Lo tieni su e poi quando il titolo non è più oggetto di titoli dei giornali inizia a calare. Nessuno vuole il debutto scivolando nel salone, per cui insomma tutti cercano di fare bella figura. Andiamo avanti su Telecom. Che succede a Telecom Italia? Ma guarda, su Telecom, meno 3, do il dato, meno 3,54%. Allora, diciamo la sintesi nelle parole dell'amministratore delegato Bernabè, che comunque ha sottolineato che il mercato del mobile in Italia si presenta particolarmente complesso. Al di là di questo illustrando i dati trimestrali del gruppo, al di là di questo, dati comunque in linea con le previsioni, i ricavi e margine operativo che sono leggermente contratti ma sostanzialmente in linea con l'anno scorso, insomma diciamo un mercato non entusiasta dei dati che è anche realizzato, infatti da inizio ottobre Telecom ha guadagnato qualcosa come l'11%, quindi magari oggi era l'occasione buona per alleggerire qualche portafoglio di titoli di una società che diciamolo non convince ancora fino in fondo. No. Finmeccanica invece meno 2,90, secondo peggior titolo, risente invece della trimestrale di ieri. Sì, diffusa a mercati chiusi. A mercato chiuso, infatti, oggi era la prima reazione. Sì, oggi diciamo un utile trimestrale che è calato dell'11% a 321 milioni, la società comunque insomma risente, volente o nolente, anche di fatti non prettamente finanziari, e quindi oggi il titolo ha pagato. E adesso, un titolo che per me, ma è una mia ossessione per carità, però finché non capisco non mi convinco, un titolo che rappresenta un vero e proprio giallo. Anzi, i titoli sono due. Uno si chiama Exor, è la cassaforte finanziaria della famiglia Agnelli e controlla appunto al pacchetto di controllo su Fiat più 4,42% oggi. E l'altro è Fiat più 2,70%, con il risultato che Exor è arrivata a 19,84 euro e Fiat a 12,52 euro. Diciamo, per Fiat continua a crescere, Exor pure, nella settimana in cui sono arrivati dei dati sulle matricolazioni Fiat pesantissimi, ma due indicazioni, una di Goldman Sachs e l'altra ieri di UBS, che dicevano comprate Fiat, il titolo potrà arrivare fino a 21-22 euro per azione. Allora, l'ispettore Clouseau, Ceo Condina, chiariscici il dubbio, ma che succede su Fiat? Oddio, c'è qualcuno di meglio dell'ispettore Clouseau. Vabbè, insomma. Chi ci vuole? Non lo so, insomma, dovremmo chiedere a qualcuno. Comunque, no, in questo caso ho dato uno sguardo prima all'andamento dei titoli e non c'è neanche da pensare a dei realizzi, perché poi sia Fiat che Exor, soprattutto quest'ultima, hanno guadagnato molto anche insomma nelle ultime settimane. La spiegazione ufficiale, insomma, quella che si può sentire sul mercato è che Exor attualmente quota sconto rispetto alle altre holding, e anzi lo scorporo dell'auto aiuterà, insomma, a cancellare parte di questo sconto, nelle quotazioni di borsa. Questa è la spiegazione, diciamo, ufficiale. Poi per il resto bisognerà, insomma, aspettare anche effettivamente lo scorporo dell'auto, la quotazione, e vedere un attimo quello che succede. Sì, non c'è una spiegazione se non di cose che non conosciamo, lo dico anche a chi scrive, per cui il ragionamento sulla la divisione tra Fiat Auto e Fiat Industrial, tutto quello che volete. Oggi è stato Standard & Poor's, anche rivista, anche dato outlook negativo, cioè prospettive negative per Fiat Industrial, non capiamo. Chiudiamo su Unicredit, si è risentito di tutti gli scontri. Anche lì, insomma, baruffe chiozzotte, potremmo dire, dentro il gruppo, sì o no, e poi Pirelli. Ma allora, Unicredit ha guadagnato il 2% esatto, così come, insomma, in linea con il comparto bancario, che oggi è stato trascinato al rialzo dagli ottimi dati di BNP Paribas, quindi direi che il titolo, che comunque ricordiamo che è su livelli abbastanza modesti, non ha risentito delle baruffe, se possiamo chiamarle così, a livello di vertice. Sì, quello che si è letto oggi sui giornali, tra Ramp, Palenzona, le fondazioni, Biasi, insomma. Sì, e domani Profumo parlerà per la prima volta a Torino, lo seguiremo in un dibattito pubblico in cui ci sarà Roger Bravanel, Guerra, Andrea Guerra di Luxottica, interverrà a Torino per la prima volta pubblicamente. Detto ciò, Pirelli, che oggi ha diffuso il piano triennale. Pirelli ha guadagnato un punto, quindi è sostanzialmente un punto percentuale in linea con il FTSE MIB, quindi un piano triennale che possiamo dedurre è stato tutto sommato nelle attese degli operatori. Si annuncia una discesa del debito sotto il miliardo, 1,9 miliardi di investimenti, quindi insomma il mercato l'ha sostanzialmente apprezzato, per nessuna sorpresa né positiva né negativa. Allora, altri titoli dopo il GR, perché c'è la sigla di conclusione della prima ora. Grazie a Ceo Condina, Radio Colle sulle 24 ore, GR, altri titoli, poi il collegamento con chi ha seguito l'incontro Marchionne ministro Romani, e poi le accuse del mondo degli artigiani. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, continuiamo a parlare di Fiat al di là del giallo di borsa. Vedo che alcuni ascoltatori scrivono: ma Fiat cresce tanto per merito di Chrysler, che sta salendo tanto in America. Verificheremo, ma ci convince fino a un certo punto questa spiegazione. Dicevamo, Fiat, oltre che continui rialzi in borsa, più 2,70% oggi, Exor più 4,42%, aveva un appuntamento importante che si è concluso, ossia l'incontro tra Sergio Marchionne, numero uno di Fiat, e il neo ministro dello sviluppo economico, e mi riferisco chiaramente al ministro Paolo Romani. Siamo in collegamento con la nostra Alessandra Schepisi, che ha seguito l'incontro. Alessandra, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, un incontro molto positivo, così l'hanno definito entrambi gli interlocutori, durato oltre un'ora, è stato il primo faccia a faccia dopo il periodo di vacanze seguito alle dimissioni dell'ex titolare del Dicastero Scajola, al centro ovviamente le strategie del gruppo in Italia. Marchionne, incalzato dai giornalisti, è tornato poi su quella sua famosa dichiarazione nella trasmissione di Fazio, quando disse che senza la parte italiana la Fiat farebbe di più. Ha detto: io non ho mai minacciato di andare via dall'Italia. Il numero uno dell'ingotto ha poi confermato la volontà dell'azienda di andare avanti sul progetto New Company per Pomigliano, la nuova società che dovrebbe prevedere un nuovo tipo di contratti di lavoro per i suoi futuri dipendenti. Le assunzioni partiranno dal 2011, ha detto Marchionne, ma sentiamo la sua voce. C'è una chiarezza assoluta, c'è un accordo che è stato firmato con gli altri sindacati che rappresenta tutto, è già fatto. Pomigliano è il discorso chiuso, no? Abbiamo già cominciato a investire, la macchina partirà l'anno prossimo. So che il volume di Panda che stiamo trasferendo a Pomigliano è sufficiente ad assorbire il numero degli organici di Pomigliano. No, guardi, questo ho letto anche i giornali dopo i risultati di ottobre, lo sto ripetendo da mesi, no? Che questo comportamento del mercato durante il 2010 e una parte del 2011 era totalmente in linea con le previsioni che avevamo. Non c'è niente di anomalo, no? Si è spostato il mercato dai segmenti in cui eravamo forti noi, specialmente metano, GPL, che sono stati oltre va oltre questione delle piccole, è questione di tecnologia, no? Gli incentivi erano in favore del GPL, del metano. Una volta tolti gli incentivi, il costo di quella vettura là è aumentato, tutto lì. Quanto a Chrysler, è una macchina che ha cominciato a funzionare, che sta producendo utile, ha sottolineato Marchionne parlando dell'impegno preso dal governo americano. Anche se dovesse cambiare l'aspetto politico di Washington, non credo che cambieranno i risultati. Un incontro importante e molto approfondito l'ha definito il ministro dello sviluppo Romani. Il nostro paese ha una straordinaria occasione industriale, 20 miliardi di investimento da una grande fabbrica italiana, un'occasione che il sistema Italia non può permettersi di perdere. Da oggi, ha detto Romani, può cominciare quel percorso che Marchionne auspicava. Nell'incontro si è parlato anche del nodo di Termini Imerese. Sentiamo allora la voce del ministro. Voi sapete che ci sono state qualcosa come 27 manifestazioni di interesse per Termini Imerese. Voi sapete che lo stabilimento comunque rimane Fiat fino alla fine dell'anno prossimo. Di queste 27 manifestazioni di interesse siamo arrivati oggi a 7, non tutte del settore automobile, alcune del settore automobile. Insieme al governo, insieme a Fiat, esamineremo quali possono essere le soluzioni migliori, anche perché se il progetto industriale ha da essere, deve essere un progetto industriale che cammina con le sue gambe anche dopo. Penso che sia arrivato il momento di parlare anche con i sindacati. Noi ci auguriamo che una minoranza sindacale non pregiudichi un percorso industriale fondamentale per il nostro Paese. 20 miliardi, per come dice il dottor Marchionne, di investimento nel nostro Paese vuol dire avere la possibilità di produrre nel nostro Paese non più le 650.000 macchine di oggi, ma ben 1.400.000, e quindi ovviamente questo vuol dire un grande riflesso di capacità industriale dell'Italia, un grande riflesso sull'occupazione, quindi un segmento industriale, una strategia industriale largamente positiva. Così appunto il ministro Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Importante quello che Marchionne ha ricordato, e quindi l'avete appena sentito: le assunzioni a Pomigliano partiranno dal 2011 e il trasferire dalla Polonia a Pomigliano la produzione della Panda permetterà di assorbire il numero di tutti i dipendenti di Pomigliano. Chrysler, volete sapere, gli utili Chrysler usciranno il prossimo 9 novembre, quindi quando usciranno, 8 novembre scusatemi, quando usciranno. Ve le diremo altre trimestrali. Telecom, l'utile balzato a 1.820.000.000, ricavi stabili, risultati superiori alle attese degli analisti, ma il mercato non è convinto, lo dico chi si fosse messo in collegamento. Il titolo ha perso il 3,5%, anche se il debito è sceso a 33 miliardi, quasi un miliardo in meno, però calano i ricavi sul mercato domestico. E anche gli investimenti e il numero, le spese per il personale. Infine, BNL, anch'essa in trimestrale, utile in calo 341 milioni nei primi 9 mesi del 2010. Ma adesso parliamo di altro, parliamo di tutt'altro, parliamo degli artigiani italiani che oggi hanno avuto la loro assemblea annuale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, della piccola e media impresa, e dal palco è arrivato un forte appello, chiamiamolo appello, insomma, al governo e alle istituzioni. E allora, come dicevamo, un appello forte, a noi è sembrato di sentire una traccia di quanto detto dalla Presidente di Confindustria Marcegaglia lo scorso sabato a Capri, che molte polemiche ha scatenato. Questa volta non c'entrano gli industriali, c'entrano gli artigiani italiani. Perché a Roma, come ricordavamo, l'assemblea annuale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa significa 670.000 associati di artigiani, fa parte di Rete Imprese Italia. È arrivato un monito, un allarme, un richiamo, il termine mi interessa poco, insomma, un appello forte da parte del Presidente, che ha detto: adesso basta, così non si va avanti. E a questo punto, al di fuori di ogni polemica politica, sarebbe importante per qualunque governo ascoltare le richieste che arrivano dal mondo produttivo, che siano le imprese di Confindustria, che siano gli artigiani della CNA, poco importa, sempre mondo produttivo è. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Ivan Malavasi, buonasera. Buonasera, grazie a lei. Allora, mi chiarisca il concetto, perché mi ridice che cos'è il disagio e la perplessità che voi diciamo, osservate e registrate, su che cosa e perché dice ora basta? Insomma, Insomma, noi abbiamo raccolto in questo anno, per la verità, di sofferenze ancora delle imprese in giro per l'Italia, uno stato, io lo definisco, di spaesamento nella mia relazione. Sostanzialmente c'è un mondo che ancora vuole reagire, che è il mondo delle imprese, le piccole e le grandi, le medie, il commercio. Il mondo delle imprese è un mondo vivo e ha la percezione di essere solo, di non avere di fianco il paese, di sentire la politica che parla d'altro, che vede teatrini che non vorrebbe vedere, e quindi un forte richiamo al senso di responsabilità, all'etica, alla responsabilità e alla governabilità. Ecco, però voi dite anche, esprimiamo disagio e perplessità all'azione di governo. Allora, leggo quanto lei ha dichiarato oggi l'agenzia: a tutti è evidente che l'azione dell'esecutivo oggi è rallentata, avvitata attorno a questioni che appaiono sempre più lontane dalle sfide drammatiche che il paese ha di fronte. Cos'è? Lo scandalo Ruby, le vicende sessuali del Premier, a cosa si fa riferimento? Guardi, a tutto. Devo dire che, insomma, prima gli appartamenti a Monte Carlo, poi le vicende giudiziarie, poi le intercettazioni, poi Rudy, e poi ce n'è sempre una per parlare d'altro. Insomma, davvero la sensazione che la nostra classe dirigente sia avvitata ad un confronto che non riguardi i problemi veri del paese. Noi diciamo anche, cioè, prendiamo atto, denunciamo una situazione che secondo noi non è anche difficilmente confutabile, non è un giudizio politico di merito che diamo, perché è proprio la percezione che non c'è guida politica, c'è una classe dirigente forse non all'altezza. Sì, allora, visto che lei fa delle dichiarazioni legittime, per molti ascoltatori anche giuste, ma forti, dopo il traffico vorrei capire però che cosa chiedete, perché non basta dire la guida non è all'altezza. Che cosa chiedete, che misure vorreste vedere, fermo restando che i conti pubblici così sono e non si possono peggiorare? 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, presidente della Confederazione Nazionale degli Artigiani, Malavasi, mi faccia fare l'avvocato del governo. Il governo dice: ma come non abbiamo fatto niente? Abbiamo messo in sicurezza i conti pubblici, un'azione riconosciuta anche a livello europeo dell'agenzia di rating, abbiamo gestito bene la crisi, anche per quello che riguarda l'occupazione. Insomma, c'è stata l'azione del governo, non è colpa nostra se poi la stampa si occupa solo delle faccende private e sessuali del Premier. Le cose che dice nella relazione ci sono tutte, noi riconosciamo anche altre oltre quello che lei dice. La messa in sicurezza dei conti pubblici, la tenuta, il rigore, l'intervento positivo che noi giudichiamo positivo sulla messa in sicurezza del sistema finanziario delle banche nel nostro paese, la forte azione che hanno fatto governo e conferenza Stato-Regioni sugli strumenti della cassa integrazione in deroga. Quindi noi abbiamo riconosciuto il governo e lo riconosciamo anche lì, anche rigore e azione, ma devo dire che insomma dall'inizio dell'anno d'oggi sono state approvate 10 leggi in questo Parlamento. Sono state approvate, mi scusi, non ho capito. Dall'inizio dell'anno d'oggi sono state approvate 10 leggi nel Parlamento italiano. Quindi significa che, insomma, si discute d'altro e quando ci sono, per la verità, insomma, il livello di confronto politico mi pare che gli italiani, e dentro queste ci sono anche gli imprenditori, gli imprenditori non sono una razza estranea, meritino, come dire, di sentire il paese con sé. Potrei dirle la percezione che ho avuto partecipando, andando a visitare l'Expo in Cina, insomma, si sentiva più il mondo dell'impresa che il paese. No, guarda, ne abbiamo parlato con il commissario all'Expo Beniamino Quintieri lunedì per celebrare l'ottimo risultato. Lui stesso ci ha detto in diretta, se non ve lo faccio riascoltare, ma che si è sentito un po' abbandonato, ha ricevuto la visita di due ministri, uno era Sacconi con la delegazione di Confindustria quando c'eravamo anche noi, l'altro la Presti Giacomo per l'inaugurazione, mai è venuto il Presidente del Consiglio, mai gli altri ministri, a differenza di quanto hanno fatto Sarkozy, la Merkel e Zapatero. Quindi su questo lo capisco, però tornando a noi, io vorrei capire che cosa chiedete. Cioè, voi chiedete che il governo si occupi dello stato dell'economia e delle imprese e la smetta con polemiche di altro genere, e questo l'ho capito, che ci sia un'azione legislativa più forte, perché 10 leggi di qualunque tipo in 10 mesi è un po' pochino per essere buoni, per essere molto buoni, però poi mi deve dire in che cosa deve intervenire. Allora mi immaginiamo che da domani il governo smette di occuparsi della magistratura, dei giudici, della stampa cattiva e l'opposizione, delle vicende diciamo, private a sfondo più o meno sessuale del Premier e dice adesso mi dedico a voi. Che cosa gli chiedete? La riforma fiscale, la semplificazione. Semplificazione burocratica. Per la verità sono annunciate, basta con i proclami quello che io dico. Serve a coerenza. Lei, il mondo delle associazioni, guardi, c'è un fatto nuovo da un paio di mesi che non può sfuggire. Il mondo della rappresentanza, datoriale e del lavoro, si mettono assieme e costruiscono documenti che hanno inviato due giorni fa al governo. Da un altro lato, cinque mesi fa, nasce Rete Imprese Italia, quindi grandi aggregazioni di imprese che si uniscono e mettono a disposizione anche l'elenco dei problemi, ma anche l'elenco delle soluzioni, quelle che pensiamo noi naturalmente, che vanno confrontate, vanno coordinate, vanno condivise. Quindi le cose da fare sono tante. Il credito, la ricerca, il riequilibrio del peso fiscale, cose che il governo nella sua agenda mantiene, ma se il percorso lodevole che abbiamo affrontato col Presidente del Consiglio e col Ministro Tremonti non più di 20 giorni fa in un incontro tra governo e parti sociali, si risolve nel dire bene, costruiamo un quadro di riferimento per innovare e definiamo alcuni principi per innovare il sistema fiscale, poi facciamo un decreto delega che si aggiunteranno le deleghe in X tempo. Lei capisce che il paese fa in tempo a morire, cioè abbiamo bisogno di atti subito. Questo paese qua rischia di essere troppo lento da troppi anni, ma non è neanche un problema solo di questi giorni, io non sono, quando parlo dell'associazione le garantisco che sono equo della destra e della sinistra, di centrodestra e di centrosinistra. Cioè, gli effetti di un paese che non cresce sarà anche la nostra incapacità di imprenditori, che ci mettiamo anche in gioco, ci chiediamo anche, come dire, mettiamo anche le nostre responsabilità. Ma comunque noi tutti i giorni lavoriamo, tutti i giorni apriamo, tutti i giorni andiamo sui mercati, tutti i giorni ci confrontiamo, prendiamo a volte pacche sui denti, a volte le diamo anche, stiamo sul mercato. Chi ci aiuta? La percezione di essere soli è una percezione drammatica, drammatica. Se va nella rete, nei sistemi territoriali del forte nord-est o del nord-ovest o comunque no, oh, ma lei trova ad avere una rabbia dentro, e dice ma come, ma siamo qua, ce la facciamo, ci impegniamo, non, utilizziamo tutti gli strumenti, teniamo nell'occupazione, mettiamo in campo i valori dell'impresa assieme a quelli del lavoro, ma alla fine qual è il risultato che ci viene? Un'idea grande di federalismo, che di questo paese forse è una delle grandi riforme da poter fare, insomma, è stata annunciata e votata alla delega due anni fa, quando è che vedrà la luce? Quindi, e questo è ciò che non va in questo paese. Allora, quindi voi, non è che mancano le idee. Dite, al di là dei casi e dei motivi per cui il governo si distrae o si concentra su altro, noi siamo stufi di avere, come artigiani nel caso suo, imprenditori nel caso di Confindustria, siamo stufi di non avere, di avere promesse, annunci e poi i decreti attuativi, che concretamente sono quello che riempie la legge di operatività, non arrivano mai. Le chiedo, visto che però i conti pubblici sono messi come sono messi e l'Europa stessa va a un giro di vite sui conti pubblici, è chiaro che ha visto cosa è successo oggi, il governo è stato battuto alla Camera sull'emendamento alla finanziaria, vi sarà probabilmente un assalto, un tentativo di assalto alla diligenza. Il viceministro Vegas ha fatto sapere che gli emendamenti proposti costerebbero 4 miliardi e mezzo in più, quasi 5, proposti come emendamenti appunto alla finanziaria, quindi insostenibile. Soldi non ce ne sono, inutile che le racconti io la favoletta. Che riforme, che interventi potrebbe fare il governo senza toccare, diciamo, l'andamento del deficit e quindi dei conti pubblici? Guardi, io credo che l'economia possa e debba avere bisogno di qualche intervento di incentivante. Prendo delle cose piccole, perché non voglio parlare dei megasistemi che poi sono complicati, però il fatto che si dimezzino gli investimenti pubblici è un fatto che il volano si riduce. E quindi anche la forza pubblica. Il fatto del patto di stabilità così rigido sui comuni, province e regioni, dove ci sono molte amministrazioni virtuose che hanno grandi risorse, ma bloccate, non possono nemmeno fare le manutenzioni per il patto di stabilità, io credo che questo governo, non in questa, ma la legislatura passata, fece una battaglia contro l'Europa dicendo ma è sbagliato calcolare solo il debito, se io faccio un investimento e il ritorno del debito è dimostrato, posso estrarlo l'investimento dal debito? Ho capito, però allora, servono regole europee. Certo, lei ha ragione, capisco. Però, insomma, però dentro guardi, però, che dentro il nuovo patto di stabilità, o diciamo così, i criteri del 20 del 2020, e queste possibilità ci sono. Allora partiamo anche da lì, stiamo nei tavoli regionali, nazionali, europei, o non lasciamo sempre il pallino a qualche colpo di intuito che ha una volta la Merkel, una volta Sarkozy, una volta gli altri, e noi? Va bene, grazie, vedo che ha ricevuto molti consensi il suo appello, grazie al presidente della Confederazione Nazionale Artigiani Malavasi. Allora, Giuseppe Cruciani, insomma, anche dagli artigiani come dagli industriali c'è questo grido di dolore, insomma, nessuno si occupa di noi, la politica si occupa di altro. Allora, tu che la racconti tutti i giorni, seppure diciamo sul fronte anche del Gran Guignol, di cosa si occupa oggi la politica? Beh, appunto, ancora delle discussioni intorno alle escort, con Berlusconi che dice che tutti gli attacchi che sta subendo sono colpa della malavita, e poi naturalmente sentiremo le voci di due protagonisti di questa storia, Lele Mora ed Emilio Fede. Allora, dagli artigiani Lele Mora e Emilio Fede, da Sebastiano Barisoni a tutti voi un auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.